Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 10 maggio, questa è la puntata numero 25 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e dopo 5 settimane di assenza preannunciata dalle frequenze di Radio Città Fucico ho il piacere di darvi nuovamente il benvenuto oggi per questa puntata che inaugura il ritorno in onda di Bologna e dintorni. Torneremo a occuparci di uno degli argomenti che ha più frequentemente interessato questa trasmissione e che nelle ultime settimane, proprio nel periodo in cui siamo stati assenti dai vostri pranzi del sabato, ha registrato degli sviluppi tragici e molto significativi. Parliamo naturalmente della situazione in Palestina, la fine del cessate il fuoco e della tregua che aveva precariamente tenuto tra gennaio e marzo ha fatto letteralmente precipitare la situazione, in particolare nella striscia di Gaza, che è oggi teatro di una vera e propria tragedia. La popolazione gazzawi nella striscia è praticamente ridotta alla fame, non entra nessun aiuto umanitario, le risorse alimentari sono ridotte all'osso, le immagini di bambine e bambini ridotti alla fame ormai sono tragicamente di luogo comune e di senso comune. Naturalmente continua ad aumentare il numero delle vittime, ufficialmente si aggirerebbe intorno alle 50.000, ma stime anche piuttosto accreditate parlerebbero di oltre 200.000 morti dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza il 7 ottobre del 2023. Cala l'attenzione della cosiddetta comunità internazionale, naturalmente mi riferisco ai paesi occidentali, complice anche l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca a gennaio. Continuano invece le manifestazioni di supporto al popolo palestinese, ma questo in questo momento sicuramente non possiamo dire essere sufficiente a lenire anche minimamente la tragedia in corso. Io mi fermerei qua prima di dare la parola alle ospiti di oggi. Ci prendiamo una brevissima pausa musicale. A tra poco. I'm not Man in the Box, questi erano gli Alice in Chains. Bentornate e bentornati. Oggi amaramente torniamo a occuparci della situazione in Palestina, vista l'escalation drammatica degli ultimi mesi e delle ultime settimane, per capire quanto sta accadendo sulla striscia di Gaza, nella Palestina assediata. Abbiamo oggi come ospiti Carla Pagano e Alberica Bazzoni, entrambe ricercatrici e attiviste della rete Ricerca e Università per la Palestina. Buongiorno Carla e Alberica e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Bene, comincerei con una domanda per Alberica. Dalla fine del cessate il fuoco a marzo, la situazione, come dicevamo, nella striscia di Gaza è precipitata ed è oggi ben oltre il dramma, se così possiamo dire. Le notizie che arrivano da Gaza parlano, testimoniano di una catastrofe in piena regola. Che cosa sta succedendo sul campo, Alberica? Il territorio di Gaza è sottoposto a un blocco totale degli aiuti da oltre 2 mesi, non entrano medicine, cibo e nel frattempo le infrastrutture di Gaza sono completamente distrutte, tra cui l'intero sistema sanitario, scolastico, abitativo e agricolo e in questi ultimi 2 mesi dalla ripresa dopo il cessate il fuoco i bombardamenti dei civili si sono intensificati. Israele ha anche bombardato gli impianti di desalinizzazione dell'acqua, tutti i forni per il pane e i magazzini di cibo e ci troviamo quindi in uno stato di piena carestia. È difficile in questa situazione farsi un'idea del numero dei morti. Siamo a oltre 50.000 morti accertati, ma studi oramai già datati, come quello del Lancet del febbraio 2025, stimano in realtà che siamo più sui 200.000 morti. In questi 2 mesi di blocco sono già morti di fame oltre 60 bambini, 70.000 sono ricoverati in fase di malnutrizione acuta e quasi 300.000 bambini sono a rischio imminente di morte. In parallelo, Israele sta portando avanti la cosiddetta gasificazione della Cisgiordania, cioè sta accelerando esponenzialmente la partizione, l'annessione illegale di territori, le espulsioni forzate, i pogrom, gli arresti di massa, le uccisioni e i bombardamenti di civili e la distruzione delle infrastrutture. Ecco, in questo quadro già diciamo di per sé drammatico fino a qua, all'inizio di maggio, Israele ha approvato un piano di sfollamento e ricollocamento della popolazione della striscia dentro a quelle che sono state definite zone sterili. Il piano è stato addirittura descritto da alcuni osservatori, da alcune osservatrici come un tentativo di pulizia etnica dei palestinesi di Gaza. Questa volta mi rivolgo a Carla, ci aiuti a capire di che cosa si tratta e che cosa prevede questo piano. Beh, come dicevi, a primi di maggio il governo di estrema destra israeliano ha approvato questo piano che si chiama I carri di Gedeone in italiano e non mi soffermo sul simbolismo religioso usato per questa denominazione. In poche parole, si tratta dell'occupazione militare permanente della striscia di Gaza che prevede non lo sfollamento, direi, ma il trasferimento forzato degli abitanti palestinesi nel sud della striscia di Gaza, quindi a ridosso di Rafah, e il pieno controllo israeliano sugli aiuti umanitari che peraltro Israele già esercita da circa un anno, e il concentramento forzato di 2 milioni di persone in uno spazio che è stato considerato essere grande quanto il comune di Imperia, che per rendere l'idea di abitanti ne ha poco più di 42.000, non 2 milioni. Si tratta quindi di 2 milioni di persone che sono state affamate di proposito da Israele, in particolare a partire dalla rottura, sempre da parte di Israele, della tregua il 18 marzo scorso, persone che sono fermate, la metà delle quali sono bambine e bambini, molti dei quali sono rimasti orfani. Si tratta di persone ferite, mutilate, orribilmente da bombardamenti indiscriminati, sproporzionati e incessanti da 20 mesi. Ora, Israele controlla già, come sappiamo, una zona che loro definiscono cuscinetto, ma che è larga circa 1 chilometro e che corre lungo tutto il perimetro della striscia, e in più due grandi corridoi che tagliano Gaza da est a ovest, e quindi il nord e il sud sono isolati da tempo, non possono più comunicare. Però questo piano segna un cambiamento di strategia molto importante, cioè la rioccupazione permanente, come dicevo, di tutta la striscia di Gaza, e l'allontanamento permanente e forzato della sua popolazione. Quindi questo si configura in tutta evidenza e a detta dello stesso esecutivo israeliano come una espulsione progressiva della popolazione. Si tratta in effetti di una depalestinizzazione totale di Gaza, e un'intenzione questa che Israele ha reso nota da tempo, perché era già stata dichiarata dall'esecutivo tutto, quindi da tutti i suoi 12 ministri, durante la conferenza per la ricolonizzazione di Gaza. Era stata proprio nominata così già il 24 gennaio scorso. E comunque vale la pena ricordare che in molte occasioni, già prima del 7 ottobre del 2023, membri dell'attuale esecutivo hanno affermato a più riprese che i palestinesi, come gruppo non umano, questa è una definizione che hanno ripetuto molto spesso e che molta parte comunque di Israele sostiene, ecco, quelli palestinesi meritino di essere ridotti all'inesistenza. Ora, questo intento, insieme alla determinazione di condizioni di vita impossibili, e cioè l'affamare sistematico e strategico della popolazione per procurarne la morte, la distruzione di ogni struttura sanitaria e civile per lo stesso scopo, e diciamo anche l'impossibilità proprio per la vita stessa di nascere. Israele, oltre ad ammazzare i bambini, ha anche distrutto cliniche per la fertilità con oltre 4.000 embrioni. Ecco, tutto questo determina non solo pulizia etnica, ma ciò che giuristi e giuriste di tutto il mondo, tra cui la Corte internazionale di giustizia, determina come genocidio. Ci sono, sembrano registrarsi due processi in qualche modo antitetici. Da un lato cresce l'opposizione interna, abbiamo visto diverse manifestazioni di protesta contro le politiche del governo di Netanyahu, quindi manifestazioni all'interno di Israele contro Netanyahu e le imprese belliche di Tel Aviv in Palestina. Dall'altro lato però nel quadro internazionale finora sembra che ogni pressione, seppure timida, non abbia fatto effetto, non abbia sortito conseguenze, e oggi pare di poter dire che le pressioni sul piano internazionale non siano più neanche troppo espliciti. Ci aiutate a ricostruire un po' questo quadro di opposizione sia interna che internazionale, e vi chiedo anche un'opinione rispetto a questo. Io non credo che in Israele l'opposizione al governo stia crescendo molto in merito all'occupazione e al genocidio del popolo palestinese, a parte pochi segmenti della società, tra cui alcuni movimenti religiosi ortodossi, questo sia a livello internazionale sia molto recentemente a livello interno, come i rabbini per i diritti umani e insomma i pochi, ecco, gruppi anarchici rimasti. Io penso che, anche per averlo vissuto, insomma, posso un po' affermarlo, che la società israeliana si è cambiata in maniera radicale negli ultimi decenni, e che quindi sono poche attualmente le forze politiche di opposizione che resistono e che propongono un'agenda politica basata anche sull'aumento del conflitto interno. La sinistra israeliana, bisogna dirlo, è più divisa e marginalizzata che mai, e c'è quella che storicamente si configurava come una lotta congiunta palestinese-israeliana, e ora si trova ad un punto di rottura, e non c'è una leadership politica di sinistra che possa cambiare la politica israeliana dall'interno. Ecco, rispetto all'opposizione al governo, invece, già prima del 7 ottobre c'erano state grandi manifestazioni di protesta contro il governo, ma in particolare contro Netanyahu, il primo ministro, che aveva proposto, cioè riuscito, una riforma della giustizia che era volta a proteggere se stesso da accuse, tra l'altro fondate e provate, di corruzione. Però tutto questo nulla aveva a che fare con l'occupazione e la pulizia etnica della Palestina. Il piano Gideon-Chariots, i carri di Gedeone di cui parlavamo in apertura, rende molto chiari questi intenti di pulizia etnica, genocidio e colonizzazione permanente, e così come i piani di dichiarare finita la questione degli ostaggi, che il governo lascerà morire probabilmente a Gaza, giacché non ha accettato la proposta di Hamas, appoggiata anche dai paesi arabi, di consegna di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra. Inoltre, non è un elemento da sottovalutare, l'esercito israeliano è appoggiato dal potente movimento dei coloni, di cui alcuni esponenti siedono nell'esecutivo e hanno anche molti poteri, come il ministro delle finanze Smotrich e quello per la sicurezza alimentare Dikter. Certo, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali si sono distinti per l'appoggio incondizionato ad Israele. Infatti, diciamo che è difficile immaginare che possa venire un cambiamento dall'interno di Israele, e per quanto invece riguarda la posizione di Israele a livello globale, sicuramente è cambiata molto, in questo ultimo anno e mezzo. Bisogna sottolineare che Israele è sostenuto compattamente dal blocco occidentale, ma bisogna ricordare che la stragrande maggioranza dei paesi riconoscono lo Stato di Palestina, e bisogna ricordare le sentenze, la serie di sentenze della Corte Internazionale di Giustizia e della Corte Penale Internazionale che hanno condannato Israele. Ci sono iniziative portate avanti da paesi del sud globale come la Hague Group, il gruppo dell'AIA, che è una coalizione di 9 stati impegnati perché Israele sia sottoposto alla giustizia internazionale. Per quanto riguarda, diciamo, il fronte occidentale pro-Israele, è fondamentale sottolineare la continuità della politica nordamericana e dei paesi europei in supporto al colonialismo sionista e quindi oggi alle politiche genocidarie dello Stato di Israele, che non riguardano purtroppo in alcun modo solo l'amministrazione Trump. Bisogna tenere a mente, insomma, è stata l'amministrazione Biden e le politiche europee a guida von der Leyen a rendere possibile il genocidio dei palestinesi degli ultimi 19 mesi. Però anche dentro all'Europa e agli Stati Uniti si aprono dei fronti interni. Per quanto riguarda l'Europa, a guida soprattutto della Spagna, dell'Irlanda e della Slovenia, e anche fronti interni all'Italia, per esempio con la mozione unitaria per la Palestina che è stata lanciata il 15 aprile congiuntamente dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dall'Alleanza Verdi-Sinistra, in cui si chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco, la fine dell'occupazione e così via. Quindi un cambiamento sta avvenendo, però le tempistiche non corrispondono a quelle del genocidio in atto. A proposito di mobilitazioni, di opposizione, di critica nei confronti del governo israeliano e della guerra israeliana alla Palestina, in concomitanza di supporto al popolo palestinese, nel 2025 la comunità accademica italiana si è fatta promotrice, una parte della comunità accademica ha promosso per il secondo anno consecutivo un appello rivolto al Ministero degli Esteri e alle conferenze dei rettori che chiedeva l'esclusione delle università israeliane dai progetti di collaborazione con gli atenei italiani. Che cosa prevede questo secondo appello e come si è articolata la mobilitazione di opposizione ai progetti di collaborazione tra l'università italiana e gli atenei israeliani? Sì, abbiamo lanciato questa lettera per chiedere di interrompere la collaborazione scientifica e di ricerca con le istituzioni israeliane, che viene invece promossa dal cosiddetto bando Maeci. Questo sulla base del fatto che le università israeliane sono parte integrante del sistema di apartheid, di pulizia etnica portato avanti dallo Stato di Israele. E inoltre la ricerca che viene sviluppata originariamente per fini civili attraverso questo tipo di finanziamenti, in realtà viene poi utilizzata anche a fini bellici, è cosiddetta tecnologia dual use. Il bando di quest'anno rispetto all'anno scorso in teoria esclude questo tipo di ricerca, ma la verità è che è impossibile controllare gli usi secondi di una tecnologia. Quello che si può controllare sono i partner dei progetti. E se fra i partner di un progetto che sviluppa, per esempio, droni o tecnologie per il riconoscimento facciale, ci sono industrie belliche e università israeliane, non c'è molto dubbio sul fatto che entriamo in una zona di rischio. Per questo, insomma, la collaborazione con le università israeliane configura un rischio grave di complicità di genocidio e contravviene alla sentenza di luglio della Corte Internazionale di Giustizia che ordina agli stati di interrompere questo tipo di rapporti di complicità con Israele, impone un embargo militare e sanzioni mirate. E la lettera chiede quindi di rispettare il diritto internazionale e sospendere la collaborazione scientifica con Israele. Sì, le mobilitazioni pro-palestinesi sono parte, insomma, di questo movimento, di cui poi, insomma, ecco, la lettera fa parte, no? Che è volto proprio a diffondere le informazioni scientifiche, ma anche, ecco, a protestare per la complicità delle istituzioni accademiche con istituzioni israeliane, quindi con le università in particolar modo, che sono complici completamente del genocidio. E però è anche importante sottolineare che proprio nelle università sono partite importantissime, schiaccianti operazioni repressive, che sono partite sicuramente dagli Stati Uniti, ma misure repressive sono state adottate anche in Europa, in Canada, in Australia, con violenze della polizia, da parte della polizia, arresti, limitazioni della libertà di espressione, insomma, ma anche interruzioni di eventi accademici o censure o esclusione di accademici da alcuni paesi, come ad esempio la Germania. E però la repressione nelle università dei movimenti per la liberazione della Palestina ha radici storiche, così come la mobilitazione. Volevo però comunque chiudere con una nota positiva perché proprio questa mobilitazione ha determinato che diverse università italiane, tra cui ad esempio Milano, Torino, Firenze, Siena e anche Cagliari, abbiano sospeso collaborazioni con enti israeliani o modificato anche i loro statuti, in particolare rispetto alla ricerca dual use, a cui si riferiva Alberica prima. A Bari, ad esempio, il rettore si è dimesso da un comitato. Dal Comitato Leonardo, che è legato all'industria bellica, quindi che contribuisce insomma a fare dell'Italia il terzo esportatore di armi a livello globale verso Israele. Ecco, quindi è un movimento universitario, accademico, anche che rappresenta una resistenza globale, quindi contro l'occupazione, l'apartheid, ma anche contro la deriva autoritaria delle cosiddette democrazie occidentali, in nome proprio della giustizia e della solidarietà tra i popoli. Ecco. Chiudiamo con una nota per una volta positiva, seppure sia poca cosa in un quadro assolutamente tragico e desolante, prima di tutto per le palestinesi e i palestinesi, e in seconda istanza forse anche significativamente per le nostre coscienze. Alberica e Carla, io vi ringrazio davvero molto per il vostro contributo e per averci, insomma, portato con voi in questo viaggio non proprio piacevole, ma necessario da compiere nella tragedia del tempo presente. Grazie Alberica e grazie Carla. Grazie a voi per Grazie. darci voce. Grazie per lo spazio. Noi ci risentiamo come di consueto il prossimo sabato alle 13:30. Le frequenze le conoscete già, sono quelle di Radio Città Fucico.